Zolt. Fulminati in azienda. Allora Paco, abbiamo finalmente i risultati delle vendite d'inizio anno o no? Che te li ho chiesti ieri mattina e ancora non ho avuto riscontro, eh? Direttore, abbiamo processato tutti i dati delle diverse aree ed ecco qua il foglio Excel. Non so se questi dati che farà proprio piacere. Cioè, vabbè, Paco, intanto ci vuole ottimismo e peraltro se parlassi italiano saremmo anche più contenti. Comunque abbiamo un prodotto che è una bomba, abbiamo un venditore vecchi ed esperti, una campagna di promozione straordinaria, un programma di coinvolgimento dei venditori invidiato da tutti i concorrenti. Allora, vediamo questi dati e sono confidente. Area Nord-Est prodotto X27000, meno 3. Area Nord-Est prodotto X27550 variante Paco, rossa, meno 5. Paco, te l'ho detto mille volte, quando tu vedi il top dell'azienda ti dà 5 minuti, non tutto il giorno. Allora, dammi un dato, il dato aggregato, non starli a perderti via con tutti i numerini, dai. Meno 45% sul budget, direttore, che avevo detto che era una tragedia. No, vabbè, ho capito, Paco, ma un numero solo non mi dice niente. Che cosa vuol dire un numero solo? Cioè, fammi capire. Se non mi hai detto prima che non la voleva il dettaglio, ma la sintesi... No, ho capito, NCS non ci siamo, voi stagisti non mi seguite, soprattutto tu. Ma com'è possibile un calo di vendite del 45%? C'è un errore nella elaborazione dei dati. Te il tuo Excel, tienitelo tu. Adesso prendi carta e penna e me lo fai a mano il conticino. Ma mi glielo faccio anche col pallottoliere. Ma c'è una crisi nelle vendite, soprattutto sul prodotto X900. No, ascolta, allora non voglio sentire più questa parola. Il nostro prodotto è un prodotto di punta, è appena lanciato e tra l'altro è invidiato e copiato da tutti i concorrenti. Vuol dire che i concorrenti lo copia meglio. Schedula, io sono arrivato alla conclusione. Questo calo disastroso delle vendite sicuramente è colpa dei venditori. Non fa più il loro mestiere, o forse mi viene il dubbio non l'ha mai saputo fare. Ma con un prodotto così eccellente, questi non riescono a vendere. Permettimi però di ricordarti che l'anno scorso i migliori venditori si sono licenziati e sono andati alla concorrenza. Ma cosa c'entra? Chi non vuostra qui non sta qui e se ne va. Questo è un altro discorso. Tu hai fatto la formazione dei venditori? Certo, abbiamo fatto la formazione dei venditori. Allora, formazione è fatta. Il prodotto è buono e il risultato è questo qui. C'è qualcosa che non va e la colpa è dei venditori. Adesso io voglio... Fai così, allora fissami un appuntamento telefonico domani mattina con lo Squalo, il nostro miglior capo area, dai! Pronto, Squalo? Sono Marco sul pezzo! Oh, chiarissimo! Come sei? Sul pezzo! Sì, bene! Quando bene. Mi vieni a trovare qui a Roma, le porto a Fascari, certo, a fare una bella maniera delle porchette! Certo. Se famo una rimpatriata, non te vedo da un anno! Ecco, appunto, non ci vediamo da un anno, anche perché in quest'anno mi pare che abbiamo cazzeggiato, questa è la verità! Sul pezzo non mi va così, lo sai che ci rimango male, no, lo sai che il tuo Squalo è sempre in prima linea sul campo di battaglia, lui e i suoi uomini tutti in guerra per cercare di strappare al concorrente una piccola quota di mercato. Ecco, infatti sai cosa è successo l'anno scorso? Avete perso il 43% delle vendite, caro il mio Squalo, adesso voglio una spiegazione. La spiegazione, senti, sul pezzo te parlo come un fratello. No, fratello... L'X900 fa veramente schifo sul pezzo, è buono per la rottamazione, giorno sì, giorno no, ci ritorna indietro alla manutenzione, i clienti non ne possono più, non lo vogliono comprare. Scusa lo Squalo, però lo sai che è il nostro prodotto di punta, è il più copiato dai concorrenti, dai! Sì, e se vede che i concorrenti l'hanno copiato meglio di come lo famo noi sul pezzo, il mercato se ne accorge. No, ma ascolta, io ho il dubbio che voi state cercando alibi, dai, diciamo la verità, è che i venditori sono demotivati, cioè... Ci credo che sono demotivati, sono entrati in una crisi irreversibile, gli avete tolto la macchina, per andare dal cliente devono prendere l'autobus, gli avete dimezzato gli incentivi, gli avete pure dato un prodotto da rottamare, gli avete pure aumentato gli obiettivi del 27%, e ci credo che se sono depressi. Vabbè, se basta un niente perché perdano la motivazione. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.